Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclettica, quella che va in onda in diretta al giovedì sera alle ore 22 e in replica alla domenica sera alle ore 22. La domenica poi è seguita senza soluzione di continuità dalla quarta parte, così sembrano quasi una trasmissione unica. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail a cui scrivere per far sentire la vostra voce, per iscrivervi alla lista nera. Nel caso vogliate farvi sentire da tutti, c'è un'altra possibilità: myspace.com/eclettica, lì potete urlare quanto volete. Biglietti in palio questa settimana sono quelli di Ramona Cordova, perfettamente in linea con le scelte delle ultime settimane. Il 12 alla Casa 139 di Milano, il 14 allo Spazio 211 di Torino, il 21 al Bronson di Ravenna e il 22 allo Zoo Caffè di Bologna. Johnny stava osservando la sua città dalla finestra della villetta collinare che la sua famiglia si era precipitata ad affittargli per imboscarlo dopo il suo imprevisto, insperato rientro dalla lontana, tragica Roma fra le settemplici maglie tedesche. Lo spettacolo dell'8 settembre locale, la resa di una caserma con dentro un intero reggimento davanti a due autoblindo tedesche Not Entirely Man Ned, la deportazione in Germania in vagoni piombati, avevano tutti convinto, familiari ed Engelshorn, che Johnny non sarebbe mai tornato. Nella più felice delle ipotesi stava viaggiando per la Germania, in uno di quei medesimi vagoni piombati, partito da una qualsiasi stazione dell'Italia centrale. Questo era l'incipit del Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio. Thank you. Vox. Movie Vox. Only one thing a man can do. Find something that's his. Make an island for himself. Guitar. Un'apertura tutta italiana con due lunghi brani di due nuove esperienze, di due nuove prove musicali. Beh, in effetti la seconda così nuova non è, perlomeno nella forma che ci siamo ascoltati, ma partiamo dall'inizio, partiamo dai Duo Zero. Sono in effetti un duo composto da Fabrizio Tavernelli che, fra le sue tante esperienze, vede per esempio quella con gli Acid Folk Alleanza, Acid Folk Alleanza, poi divenuti AFA, ma fra le ultime, quelle che già cominciavano ad avvicinarlo verso una certa elettronica, vi ricordo nelle playlist di qualche anno fa di Eclettica, i Roots Connection. L'altro membro del duo è Enrico Marani, membro dei TAC, una delle prime formazioni italiane in ambito sperimentale e industriale, poi è stato uno dei fondatori delle forbici di Manitou e si è anche impegnato con il gruppo Lubna. Sto sintetizzando al massimo quelle che sono le loro biografie. Sono usciti con Duo Zero per Small Voices, Esperanto, il titolo di questo disco a nome del progetto 2.0, in cui ci sono veramente tantissimi ospiti definiti esperantisti. Ve ne cito uno, Massimo Zamboni. Noi ci siamo ascoltati la traccia The Moving Box, che è la seconda dell'album. Il secondo progetto è invece quello dei Morose, o Morose, da dire all'inglese o all'italiana. L'avevano confermato anche loro durante un'intervista in Eclettica qualche anno fa. Sto parlando della band italiana che incide per la Suicide, che è arrivata a un nuovo disco dal titolo On the Back of Each Day. Noi ci siamo ascoltati la traccia Haven't You Noticed, che è la traccia numero 7 dell'intero disco. Questa è Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, che vede di proseguire alzando i ritmi, passando alla lingua svedese, perché è arrivato il nuovo album degli Ingenting per la Labrador. Di troppo. No, qui c'è un maggiore di troppo. Senti, maggiore, sarebbe il caso che tu ordinassi a tutti i tuoi sciacalli di smetterla di molestare gli agricoltori. Ho parola di vice sceriffo, se ci riprovano te li faccio tutti secchi. Like a chariot at the trumpet call, when we're all unsaved, swing like a wrecking ball, like the heart of God. What a mystery, filled with the wedding feast for the snakes and beasts, with the angel teeth, swing, come and carry us, come and marry us to the blushing circus king, and dance like elephants as he comes to us through a fiery golden ring, with a violin and a song to sing as he brings for us our wings. Now he's one of us, plays the tambourine, breaks the bread for us, and will you wait for us? Will you stay for us? Will you grace us every Ho una curiosità personale, ma l'avete riconosciuto il film che sta caratterizzando Eclettica questa settimana? È un film del 1972 che era stato rifiutato da tantissimi produttori prima di finire nelle mani di quello che ci credette e diventò, forse allora non si usava ancora questo termine, diventò un vero e proprio film di culto, tanto che lo è ancora oggi, ha creato una coppia quasi indissolubile, Terence Hill e Bud Spencer. Infatti il film di cui vi state ascoltando gli spezzoni è Lo chiamavano Trinità, con tre punti poi a seguire la parola Trinità. Sono questi gli spezzoni che stanno caratterizzando il film, e sta per arrivare un brano che magari un pochettino si riallaccia a quelle atmosfere, ma prima vi devo ricordare che vi siete ascoltati in Eclettica da Baltimore i Page Friends, ovvero sia la creatura di Michael Now. Prima era solo uno pseudonimo per se stesso, poi Page Friends è diventato il vero nome di un gruppo. Hello Dear Wind, il titolo del brano, invece Chariot, no, inverto. Hello Dear Wind è il titolo dell'album e Chariot invece è il titolo del brano. Quello che ci ascoltiamo ora è un album che è stato pubblicato il 9 di ottobre di quest'anno per la A Records, anche come primo numero di catalogo, però è una ripubblicazione. Infatti la A Records è l'etichetta che si è fatto per conto proprio tal Anton Newcomb e va a ripubblicare le sue vecchie cose. Per esempio questo era un disco originariamente pubblicato nel 1999, si chiamava Bringing It All Back Home Again, riportando tutto a casa ancora una volta, uscito nel maggio del 1999, e ci permette di capire questa ripubblicazione, come anche altre che stanno avvenendo, come siamo arrivati ai Brian Jonestown Massacre di oggi, partendo dai Brian Jonestown Massacre di ieri. Non ci sto veramente molto con le parole in questo momento, e forse capiamo di più ascoltando questo brano anche qualcosa dei motivi del come mai si sono scelti un nome ispirato ad un Rolling Stone. The Way It Was, The Brian Jonestown Massacre. E mi scuso per tutte le papere. Eclettica, fine della terza parte.